Va bene, a dopo, ciao ciao. Grazie. Perché dà un braccetto che serve aiuto, infatti si bloccava una volta già sposato e quindi a botta una là. E ci disse io se ci faccio un assegno a fine mese ci chiedo i soldi a mia mamma quando ci viene la dice, ma come li piglio? Allora se ci piglio e ha i soldi a mia mamma con un conto, chi se non me lo devo, forse. Mia mamma, 4.000 euro era, se succede qualcosa quando li piglio. Voi decidi, io non so ci muove e muore. Giuri. Allo? Allo? E allora? Commento che hai ricevuto la visita di tua moglie poco fa. Sì, sì, certo, chi te l'ha detto? È vero? È vero, è vero, ma dato una bella... Dispositivi di registrazione. Esatto, dispositivi di registrazione. Ok. Registrazione. Ora, però io qua non governo, fino di carità. Mi devi dire quello che leggi. Vedi che si alza, tu devi fare in modo di qua di cliccando col tasto destro su queste periferiche. Vedi come faccio io, c'è il tasto destro, vado sul tasto destro e gli imposto imposta come dispositivo predefinito. Devo fare clic, capito? Aspetta. Aspetta. Dino? Sì, sì. Allora, il ta- mi senti? Mi senti? Come? Ho messo configura riconoscimento vocale, disabilita mostra dispositivi attivati, mostra dispositivi disconnessi e proprietà col tasto destro sul microfono, sul primo microfono. No, devi fare sulle varie periferie, sulla guarda, aspetta che faccio una cosa. Allora, sulle periferiche, un attimo. Un attimo solo. Ecco. Sulle periferiche, vedi che anche io ho appunto quelle sì. Voci che dicevi tu. Sì, tu ce n'hai C4, mi pare. O no? Ma io ce l'ho due sole. Ecco, devi dire, imposta come dispositivo predefinito. Appunto, perché una è il microfono del computer e l'altro invece è l'ingresso. Tu devi impostargli l'altro come dispositivo predefinito, capito? E qual è l'altro? Questo, il secondo? Hai capito? Il secondo microfono? Il problema è che non lo vedo. No, configura il ricordo. Aspetta, ti faccio la foto e te la mando. Aspetta. Dai alla butta che bordello. Hai mandato la foto? No, aspetta, aspetta un attimo. Hai mandato la foto? No. Vedi qualcosa? Vedi?